Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14, con interviste registrate su spettacoli e festival in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Siamo con Stefano per parlare dell'appuntamento del 1º maggio nell'ambito del progetto Calendario Civile del Circolo Gianni Bosio al Teatro Vascello, l'Albero di Maggio, Canti del Maggio e del Lavoro. Ben trovato Stefano. Ciao, ciao, buonasera, ciao. Ci racconti un po'? Allora, il maggio, verso varie chiavi di lettura, perché il maggio è festa antichissima da un punto di vista storico, antropologico, senza dilungarci troppo, però è il momento della rinascita, il momento dei primi raccolti e, ad esempio, in Italia, ma anche in tante parti d'Europa, il maggio per esempio è sempre stato festeggiato con le questue, no? I musicisti che girano per le case del vicinato, per le campagne e suonano e augurano la bella stagione chiedendo in cambio uova, salumi, vino e via dicendo. Il maggio è stato spesso, soprattutto nell'Italia centrale, l'occasione da parte dei poeti contadini, ad esempio, di rievocare un'arte antichissima che è quella dell'improvvisazione a braccio, l'improvvisazione a ottava rima, il riallestimento in chiave contadino-pastorale dei grandi poemi di Torquato Tasso, di Ariosto, cicli cavallereschi e così via. Sappiamo bene che poi, grazie alle lotte nate negli Stati Uniti nel XIX secolo, su alcuni diritti fondamentali dei lavoratori, scioperi e lotte che poi si svolsero nel mese di maggio, poi il maggio diventa anche il mese del lavoro. E, però poi in realtà due aspetti lontano, la lotta per il riconoscimento dei diritti e il ritrovarsi come comunità a festeggiare l'arrivo della bella stagione, poi tutto sommato continuano ad essere idealmente uniti. No, noi li abbiamo uniti nello spettacolo perché appunto proponiamo una selezione di canti dai maggi popolari italiani, dai canti di questua, dei balli tradizionali dell'Appennino ma anche del Sud Italia e così via, e insieme uno spaccato di canti del lavoro, di canti sociali, di canti di lotta, non solo italiani, spaziamo da canti di lavoro dell'Ottocento alla ballata di Joe Hill, sindacalista americano che fu giustiziato dai padroni delle miniere nei primi del Novecento. E ancora insieme a tutto questo abbiamo il nostro Mauro Geraci, che è un cantastorie palermitano, che poi invece canta delle ballate, a volte satiriche, a volte tragiche, sul tema, su temi anche recenti, sul tema del precariato, sul tema degli incidenti sul lavoro e così via. Un mosaico abbastanza ricco e vario. Come si comporrà il concerto? Oltre ai pezzi cantati e suonati, ci saranno anche dei commenti, delle introduzioni? Noi abbiamo fatto, come al solito, portiamo anche un piccolo programma di sala che serve un po' a chiarire le linee generali dello spettacolo, però senza appesantire troppo, racconteremo, spiegheremo un po' gli elementi fondamentali delle nostre scelte per chiarirle, legarle, armonizzarle. Poi c'è anche qualche lettura, appunto qualche lettura tratta dalle interviste di Sandro Portelli in Valnerina negli anni 60, qualche testo dalle pagine classiche storiche del sindacalismo americano dell'IWW, quindi sì, c'è anche una non esagerata, ma c'è anche una parte recitata, una parte narrata, ecco, non c'è solo musica. Senti Stefano, è all'interno del progetto Calendario Civile del Circolo Gianni Bosio e ce ne parli un po'? Sì, l'idea è nata di non fare il concerto per il concerto, lo spettacolo per lo spettacolo, ma di inventare, di riorganizzare una nuova liturgia, se vogliamo, non solo le classiche festività civili o religiose, quelle che noi poi osserviamo nel corso dell'anno, ma andando a pescare appunto delle date che avessero anche un significato. importante dal punto di vista della dalla liberazione appunto al maggio, il ricordo della strage di Piazza Fontana, il ricordo delle stragi di mafia, il giorno della memoria sulla Shoah e così via, le rievocazioni non ovviamente così acriticamente patriottiche della Grande Guerra, eccetera, eccetera, e su questi eventi costruire una serie di appuntamenti, di spettacoli, sia teatrali che musicali o musicali teatrali, insieme, tutto poi dato vita anche a un bel volume pubblicato da Donzelli con la cura di Alessandro Portelli, il presidente del circolo Gianni Bosio, con una serie di saggi di sociologi, storici e così via che poi vanno a chiarire meglio le motivazioni delle nostre scelte. Ecco, un modo per creare appunto un calendario di feste che non siano solo feste per andare a mangiare fuori, ma che siano feste per riflettere, per trovarsi insieme anche a riflettere. Il titolo, L'albero di maggio? Perché gli alberi di maggio erano eretti dalle comunità contadine così per celebrare il maggio, alberi che venivano addobbati con i nuovi raccolti, con i fiori, rami fioriti che venivano portati in processione la notte della vigilia del maggio come buon augurio. Poi siccome noi abbiamo adottato come gruppo il nome di Albero della Libertà in tempi non sospetti, ma richiamandoci alle grandi tradizioni giacobine rivoluzionarie delle prime repubbliche italiane, subito dopo la Rivoluzione francese, l'Albero della Libertà veniva eretto per festeggiare appunto le società laiche, giacobine, libere che nascevano in seguito alla Rivoluzione francese. Allora Albero della Libertà, Albero del Maggio, abbiamo messo insieme il termine, l'idea dell'albero che ci è sempre piaciuta un po' come idea simbolica. Senti, è strettamente legato a questa data del primo maggio oppure lo porterete in giro anche in altri momenti? No, di norma il calendario civile cerca di organizzare, per il calendario civile organizziamo eventi abbastanza, a volte anche nella data proprio simbolica, primo maggio lo facciamo a Teatro Vascello, però di solito siccome ci piace portarlo in giro cerchiamo anche di portare gli spettacoli più o meno non troppo lontano da quello indicato, quindi per esempio ci siamo dati tempo per tutto il mese di maggio per continuare a portarlo, lo faremo anche il 24 di maggio nel pomeriggio all'auditorium di Stato in via Caetani e poi vediamo, insomma daremo anche altre date nell'arco del mese di maggio. Allora ricordiamo l'appuntamento con l'albero di maggio, canti del maggio e del lavoro, il primo maggio al Teatro Vascello a Roma nell'ambito del progetto calendario civile del Circolo Gianni Bosio. Stefano, un ringraziamento, un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie a voi, grazie mille. Siamo in collegamento telefonico con le Miti Pretese per parlare di tre spettacoli che porteranno in scena a Roma al Teatro Vascello dal 23 al 26 aprile, Roma ore 11. Dal 27 al 30 Troiane, frammenti di tragedia e dal 2 al 6 maggio Festa di famiglia. Benissimo. Ben trovate. Ciao. Ciao. Eccomi. Dal 2 al 6 maggio infatti faremo Festa di famiglia, che in realtà è il nostro secondo spettacolo, l'abbiamo fatto 10 anni fa, il tema è quello della violenza all'interno della famiglia e il lavoro di drammaturgia che abbiamo fatto insieme ad Andrea Camilleri, che ci ha dato degli ottimi consigli e anche un supporto morale, diciamo, un supporto teorico rispetto al lavoro che abbiamo fatto. Tutte le parole e i testi li abbiamo presi da Pirandello. Abbiamo fatto una strana operazione, abbiamo inventato una storia originale, molto semplice, una festa sorpresa per il compleanno di una madre fatta dalle tre figlie e